Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Di soldi ne ha tanti, di classe poca. Soggetto? Sottinteso. E la classe non si può comprare e spalmarla col piumino come cipria. O ce l'hai o non ce l'hai. La classe non è acqua, diceva un mio amico. Questa storia, che sembra la trama di un libro di Federico Moccia, scusa ma ti chiamo Noemi, questa telenovela compresa nei TG, mi ha stufata. Ma prima che termini la prima serie, vorrei dire la mia. Posso? Grazie. Ho sentito dire che in questa storia non c'è niente di male, nessuno scandalo, nessuna violazione di legge, almeno fino a prova contraria. Su via, siamo seri. Io penso che a rispettare le leggi siamo capaci tutti, o quasi. Lo facciamo principalmente per non subire le conseguenze della loro inosservanza, quindi non ce ne viene molto merito. Ma non ci sono, per fortuna, solo le leggi scritte. Ci sono le norme civili, le regole di buona educazione, le leggi del cuore e della morale. C'è soprattutto il caro vecchio buonsenso, una grande dote che rende rispettabili anche le persone più semplici. È una delle poche conquiste, ma ci sono anche delle eccezioni. Mio nonno aveva l'età del capo. Alla domenica pomeriggio si sedeva su una panchina di legno fuori casa ad aspettare la nostra visita settimanale. A volte un gatto gli sonnecchiava sulle ginocchia. Se uno di quei pomeriggi l'avessimo visto gongolante con delle giovinette sulle ginocchia al posto del gatto, sono sicura che mio padre avrebbe chiamato il 113. Sono passati tanti anni e ora mio padre ha l'età che aveva mio nonno, cioè l'età del capo. Adora la gioventù, ma gli unici diciottenni che frequenta sono i suoi nipoti. Se cominciasse a organizzare feste, festone e festini per altri diciottenni, mi preoccuperei seriamente. Se il nostro vecchio prozio, invitato al pranzo di Natale, dicesse all'avvenente cugina di nostro genero «se non fossi già sposato la sposerei», penseremmo che avesse alzato il gomito e faremmo sparire la bottiglia dello spumante. Perché invece a lui tutto è permesso? Fare le corna nelle foto, diventare ridicolo ogni qualvolta si trovi davanti a una bella donna, fare battute da bar sulla persona più potente del mondo, far attendere un capo di Stato mentre gesticola al cellulare come un adolescente inquieto, fare il gesto di fucilare una giornalista scomoda, e chi se le ricorda tutte? È troppo comodo giustificarlo sostenendo che lui è fatto così. Così come? Sarebbe come se un fotografo immortalasse Napolitano in pantaloncini corti e canotta mentre mette a mollo i piedi nella fontana di Trevi e i giornalisti commentassero: che male c'è? Il presidente aveva caldo. Silvia. È iniziata l'ultima settimana di campagna elettorale. Oh, pardon, di campagna denigratoria. E ancora giornali e telegiornali di che parlano in prevalenza? Ma di Silvio, per forza. Dicono che si è toccato il fondo, ma chi ci crede? Sarà come nelle feste popolari con i fuochi artificiali che, si sa, alla fine esplodono in raffiche di botti mozzafiato, di effetti speciali che rapiscono gli occhi e le emozioni. Ora le protagoniste sono le foto, anzi le non foto, che essendo state bloccate e quindi non viste, fanno sognare a seconda della fantasia di ciascuno e fanno intravedere scenari piccanti, proibiti, sicuramente osceni. Ma ora Silvio non solo è aggredito sul piano dei suoi comportamenti, ma anche su quelli di Veronica, che da tradita diventa traditrice, rendendolo solo un semplice marito ben ramificato, e lo fa diventare comune mortale, altro che imperatore. Ci aspettiamo ancora intriganti notiziole private strapagate da parte dell'opposizione, che potrà vantare nella sua storia la campagna elettorale più stravagante della storia d'Italia. Ma ora che ci hanno abituato a racconti così eccitanti e a notizie così leggere, come faremo a riabituarci al pattume della normalità, ad affrontare le notizie reali come la disoccupazione e il caro benzina? Mamma mia, che noia! Perché non organizzano qualche altra scadenza elettorale a breve? Chi ce la fa a superare l'impatto con la verità e la realtà? E a proposito di pattume, si parla tanto di pattume riferito all'informazione politica e forse non ci si accorge che è quello vero che sta tornando a diventare protagonista. In Sicilia, con la temperatura estiva che certo non aiuta, le immondizie stanno soffocando i cittadini, con scene già viste di cassonetti bruciati e cumuli inguardabili disseminati ovunque. Ma che aspettano certe regioni a svegliarsi, ad affrontare certi problemi? Non è bastato l'esempio della Campania? Non hanno voglia di apparire comunità civili? E non si vergognano di dare un'immagine da paese sottosviluppato? La risposta, evidentemente, è no. Anzi, sanno che più c'è emergenza e più i soldi, quelli profumati, arriveranno a pioggia a risolvere i problemi in superficie e a spegnere il fumo dei rifiuti incendiati e a rimandare il problema alla prossima volta. Giulia. Vi siete interrogati sulla statura di statista del nostro Presidente del Consiglio, ma Berlusconi ha preferito per sé un altro ruolo. Persino quando la cronaca, se non la storia, stava per concedergli il ruolo di statista, lui ha moltiplicato i suoi tic, le sue barzellette, i giochi di prestigio con l'effimero che lo hanno reso un grande imprenditore prima e un protagonista politico poi, sottraendosi a una monumentalizzazione solenne e scegliendo di essere una giocosa e colorata icona pop. Ma come spesso accade alle star del pop, è inciampato sui suoi eccessi e su quelli rischia di essere giudicato. Nessuno si chiede se Boy George fosse o no un grande musicista, ma ci si ricorda del suo abuso di droghe e dei suoi stravizi. Lo stile da tombeur de femme del nostro premier si è trasformato nella caricatura di un vecchio circondato da ninfette spregiudicate e aggressive, e c'è il rischio serio che questa sia l'immagine con cui potrebbe essere ricordato, quella che tanti elettori avranno davanti agli occhi in cabina elettorale, a torto o a ragione. E per quanto questo paese sia cambiato, non credo che sia un'immagine vincente. Laura. Scrivo sul caso Noemi e non voglio nascondermi dietro giri di parole. Ho sempre nutrito una certa simpatia per il cavaliere, apprezzato il suo stile anticonvenzionale e la sua capacità di gestire i problemi del nostro paese. Si perdona tutto al cavaliere, ma perdona oggi, perdona domani. Oggi non sono più così sicura di lasciar passare certi comportamenti semplicemente come anticonvenzionali. Sapete cosa mi infastidisce di più? Osservare la magnifica macchina messa in moto con i più accorti sistemi della comunicazione, della retorica, della dialettica, dal sempre valido l'arte di aver ragione di Schopenhauer, per far apparire normale ciò che normale non deve diventare. Il capo del governo si accompagna a delle minorenni, abilissimi a giocare sul dubbio del non provato, della lecita amicizia. Arriveremo, per difendere il cavaliere, a dover accettare tutto, pena l'essere tacciati di moralismo da autorevoli voci del giornalismo. E io, che moralista non sono, che comprendo ciò che è stato messo in moto, che non vedo nessuna alternativa valida alla guida del mio paese, accetterò che venga steso un velo di ipocrisia sopra questa questione, ma non sarò più incline ad accettare gli scherzosi atteggiamenti del cavaliere con simpatia. Anna. Gentile direttore, perché dovrò andare a votare nei prossimi giorni? Francamente non riesco a trovare motivazioni tali da darmi una risposta. Il quesito è ancor più amletico se penso a chi dovrebbe essere meritevole del mio voto. È da circa 10 giorni che mi ritrovo la cassetta della posta piena di carta con volti mai visti. Abituata alla politica italiana, mi sono detta che il sonno della ragione ha generato in me la crisi. Sono stufa di vedere faide televisive. Nutro un senso di rigetto verso la faccia sudaticcia di Franceschini, la voce sempre incazzata, sempre rancorosa, col piglio di chi fa moralismo prendendo di mira i comportamenti altrui, ma autoassolvendosi. Per non parlare degli altri politici. E per favore, basta parlare di Noemi. Perché i media rendono meno seri i contenuti della politica, sostituendoli con l'intrattenimento? Berlusconi è così dominante perché c'è una sinistra assente, istituzioni deboli e un giornalismo che troppo spesso ha accettato un ruolo subalterno. Proseguendo nei miei dubbi, mi è venuta in mente la teoria umorale di Ippocrate, che è anche una teoria della personalità. Ippocrate tentò di applicare alla natura umana 4 umori: bile nera, bile gialla, sangue e flegma. L'acqua corrisponderebbe alla flemma, che ha sede nella testa, la terra corrisponderebbe alla bile nera, che ha sede nella milza, il fuoco alla bile gialla, detta anche collera, che ha sede nel fegato, l'aria al sangue, la cui sede è il cuore. Il buon funzionamento dell'organismo dipenderebbe dall'equilibrio degli elementi, mentre il prevalere dell'uno o dell'altro causerebbe la malattia. La predisposizione all'eccesso di uno dei 4 umori definirebbe un carattere, un temperamento e insieme una costituzione fisica. Il flemmatico, con eccesso di flegma, è grasso, lento, pigro e sciocco. Il melanconico, con eccesso di bile nera, è magro, debole, pallido, avaro, triste. Il collerico, con eccesso di bile gialla, è magro, asciutto, di bel colore, irascibile, permaloso, furbo, generoso e superbo. Il tipo sanguigno, con eccesso di sangue, è rubicondo, gioviale, allegro, goloso e dedito ad una sessualità giocosa. Penso che tale teoria sia ancora molto attuale. Lei che ne dice? Federica. Caro Caro direttore, avete parlato molto della vicenda Fiat-Opel ed è stato da più parti sottolineato come un ruolo più attivo del governo italiano avrebbe potuto evitare il risultato negativo. In questa fase economica, il ruolo degli stati e quindi dei governi appare sempre più importante. Non pensa che l'Italia abbia sprecato una grande occasione? Giovanna. Cara Giovanna, è sempre difficile fare la storia con i se e con i ma. È difficile dire se un diverso comportamento del governo italiano avrebbe potuto evitare l'esito che si è avuto. Anche perché noi comuni mortali non possiamo sapere fino in fondo quali siano stati veramente i passi diplomatici compiuti dall'una o dall'altra parte. Resta il fatto, tuttavia, che nella vicenda Fiat-Opel più che le ipotesi industriali hanno avuto il sopravvento gli equilibri politici, in particolare il coinvolgimento della Russia. La Germania ha molto più bisogno di mantenere contatti costruttivi con Mosca rispetto a quelli con Roma, soprattutto per la sua forte dipendenza energetica. È più che probabile che questo elemento abbia avuto un peso determinante e questo assolve in parte il governo di Roma per la sua, almeno apparente, mancanza di incisività nell'azione europea. Sono una studentessa di lingue straniere all'Università La Sapienza di Roma e voglio unirmi all'onda, ma come singola. Vorrei capire come in questa Italia, che ogni giorno perde un'occasione di competere con l'Europa, se non con il mondo, non ci possano essere dei piccoli cambiamenti che ci aiuterebbero a non rimanere tanto indietro. La mia proposta, in quanto appunto studentessa di lingue, è di chiedere alle televisioni, pubbliche e non, di trasmettere dei film in lingua originale. Ciò accade in altri stati di Europa e così la gente è più spronata a conoscere bene le altre lingue. Aiuterebbe anche il singolo cittadino a rapportarsi meglio con l'inglese. Vedo spesso qui a Roma che molta gente non riesce a dare le spiegazioni più banali a dei turisti. Non siamo abituati a parlare in inglese, figuriamoci poi a conoscere altre lingue. Eppure, nei secoli passati, gli italiani che avevano studiato anche fino alle scuole superiori riuscivano a leggere i testi originali dei nostri letterati europei, oltre alle cosiddette lingue morte, latino e greco, che, anche se ancora studiate, non danno i risultati sperati. Quindi, mi faccio promotrice di questa idea. Aiuterebbe sia l'Italia e gli italiani, quanto le televisioni che ormai non sanno cosa trasmettere. Ci sarebbero i palinsesti pieni se facessero rivedere i film in lingua, che sia tedesca, francese, spagnola, cinese, eccetera. Aiuterebbero anche a capire altre culture, altre storie, altri mondi, che in questi giorni ci fanno paura. Paura perché ci viene spiegato che altri, diversi da noi, vengono in Italia per rubarci il lavoro, donne, ricchezza. Monica. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.